Lo scorso 4 aprile sono state rinviate a giudizio 18 persone, accusate del reato di devastazione e saccheggio per la manifestazione del 15 ottobre 2011. Tra di loro sono accusate anche di tentato omicidio. Prima di loro, molti ragazzi e molte ragazze si sono viste infliggere pene pesantissime e l'accusa di devastazione e saccheggio ha già portato a 6 condanne. Punire duramente, disciplinare attraverso la paura, sono le disposizioni con cui intendono scongiurare che momenti di rivolta possano ripetersi e diffondersi spontaneamente. A testa alta nelle lotte di ogni giorno e per la solidarietà agli imputati e alle imputate per la giornata di lotta del 15 ottobre, sosteniamo la cassa di solidarietà per le spese legali presso il conto corrente di Radio Onda Rossa. Bollettino di conto corrente postale numero 6180 4001, intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volci 56, 00185 Roma, causale 15 ottobre. Devastano il pianeta, saccheggiano le nostre vite, la solidarietà resta un'arma.